Questo giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Francia, secondo i sondaggi, Macron allunga sulle penne, la leader del Front National ancora contestata con lanci di uova, domenica il voto per il ballottaggio. Legittima difesa, Renzi frena sulla legge approvata ieri, è un pasticcio, dice il segretario del PD, sul tema siamo pronti ad un referendum, fa sapere Salvini. Sfruttavano i richiedenti asilo per farli lavorare nei campi a meno di 2 euro l'ora, 15 italiani arrestati, gestivano i centri e insieme facevano anche i caporali. Telemarketing scontro sulla norma che elimina il consenso preventivo alle telefonate per l'offerta di servizi, sconcerto dal garante per la privacy. Manichini impiccati con le maglie di 3 giocatori della Roma e la scritta dormite con la luce accesa, ma forse, secondo le prime indicazioni delle indagini, sarebbero stati dei tifosi della Lazio. Prende il via oggi dalla Sardegna il Giro d'Italia e c'è già il primo caso di doping, 2 atleti del team Bardiani pizzicati da luci e sospesi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno dalla quale, come sempre, andiamo in diretta video. Prima di andare sulle notizie di oggi e prima di andare in Francia, fateci ricordare una persona che è scomparsa ieri, l'abbiamo appreso dal quotidiano L'Adige con il quale collaborava. È Benjamin De Zuliano, un ragazzo di 27 anni che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e con la quale, una persona con la quale abbiamo avuto la fortuna di lavorare qualche tempo fa, quando ha fatto uno stage da noi, ha lavorato con noi in un periodo particolarmente intenso, perché tra l'altro è stato il periodo dell'Expo, nel quale spesso facevamo dirette esattamente dall'area dell'Expo. Lo descrivono nel servizio sull'Adige come un ragazzo serio, intelligente, preparatissimo, lo confermiamo e un abbraccio forte alla sua famiglia da parte nostra. Partiamo dunque con le notizie e iniziamo dalla Francia con Gigi Donelli in studio con noi per un punto di giornata a 2 giorni dal voto. Gigi, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno, un saluto agli ascoltatori. Ci siamo dunque, come hai anticipato giustamente nei titoli, il distacco sale 62 per Macron, 38 Le Pen, questo secondo l'ultimo sondaggio BFM, quindi la televisione, uno dei sondaggi, devo dire che in questi giorni rispetto ovviamente al primo turno ci hanno preso parecchio, quindi la sensazione è che da una parte, come era stato detto, il dibattito, il faccia a faccia non abbia spostato alcunché e anzi secondo questo sondaggio in particolare in realtà avrebbe spostato un po' a favore di Macron. Altre notizie: Macron ha deciso il suo vice, sarà François Bayrou, e quando dico vice naturalmente intendo nella costruzione e architettura francese il primo ministro. Bayrou dunque un centrista, lo ricordiamo, la Le Pen aveva indicato Nicolas Dupont-Aignan, quindi un sovranista di destra, le squadre sono pronte. Altra notizia che forse è anche un po' la curiosità del giorno: in questi momenti entrambi i candidati sono in cattedrale, perché Marine Le Pen è a Reims, quindi addirittura la cattedrale dei re di Francia, dal 980 tutti i re furono incoronati in quella cattedrale. Macron in un'altra parte della Francia, nel Midi, è nella cattedrale di Rodez. Chissà che appunto nella laica Francia non sia il momento anche di utilizzare e auspicare tutto il possibile. Staremo a vedere. Gigi, dato che poi toccherà a te, dettagli sullo speciale? Speciale naturalmente, seguiremo come sempre tutti gli eventi e dalle 19 alle 21 domenica in diretta su Radio 24 con moltissimi ospiti dalla Francia e dall'Italia per raccontare gli eventi. Allora, grazie a Gigi Donelli, dunque, che risentiremo ovviamente nelle prossime ore e poi a domenica sera con lo speciale che dedicheremo alle elezioni francesi. Passiamo alle vicende italiane che toccano soprattutto il dibattito sulla legittima difesa. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, un'approvazione quella della Camera che suscita molte polemiche nel PD e Matteo Renzi vuole cambiare la legge dopo che la base è in protesta per il segretario Dem, così è un pasticcio, molti dubbi anch'io, dice, aspetti poco chiari e logici, contrario anche Andrea Orlando. Il testo, ricordiamo, introduce la legittimità della reazione ad un'aggressione in casa, in negozio o in ufficio, commessa di notte o all'introduzione con violenza, minaccia o inganno. Hanno votato a favore PD GAP, contrario il centrodestra, per i quali la legge è troppo morbida, NDP e 5 Stelle per altri motivi. Ma si contesta anche il discrimine tra giorno e notte nell'aggressione, la mancanza di chiarezza nel testo per un ovvero scappato di troppo al legislatore. Ed è anche il presidente del Senato Piero Grasso a commentare: meno male che c'è il Senato se dobbiamo intervenire su questo tema. Staremo a vedere le proposte di ulteriori modifiche. Intanto Matteo Salvini della Lega annuncia che se vanno avanti con questa schifezza la Lega raccoglierà le firme per un referendum per cancellarla, e si chiede come fa il PD ad approvare una norma il giovedì e ad essere contrario il venerdì. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Veniamo all'economia, iniziando dai dati sul petrolio. Questa mattina il greggio è sceso addirittura sotto i $45 al barile a New York. Il WTI in questo momento è a $45.50, mentre il Brent è a $48.50 al barile. Per un'analisi abbiamo in diretta Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Sissi, che cosa sta succedendo? Sì, anche oggi le quotazioni del petrolio stanno cadendo in modo pesante, hanno iniziato male la giornata e hanno iniziato male anche le altre materie prime, perché non dobbiamo dimenticarci che non riguarda soltanto il petrolio la situazione. Gli investitori hanno reagito, stanno reagendo in modo forse addirittura eccessivo a questo punto a una serie di fattori. Per quanto riguarda il petrolio ci sono certamente anche delle questioni specifiche. Gli investitori stanno un po' perdendo fiducia nei tagli di produzione dell'OPEC, che dopo 4 mesi e con una disciplina che non ha precedenti nella storia, perché stanno veramente riducendo la produzione come hanno promesso, ebbene hanno avuto una scarsa efficacia, hanno ridotto per adesso le scorte, o quantomeno le scorte visibili, quelle riportate settimana per settimana negli Stati Uniti, perché poi in altri paesi c'è meno trasparenza, non abbastanza velocemente. E poi c'è tutto sullo sfondo una serie di altri fattori. C'è la Federal Reserve che comunque ha ribadito la volontà di una stretta monetaria, di un rialzo dei tassi, nonostante la frenata dell'economia negli Stati Uniti. C'è questa frenata dell'economia, per l'appunto, c'è un'altra frenata in Cina dell'attività manifatturiera. Le borse stanno andando di nuovo male in Cina e le materie prime stanno crollando pesantemente anche in Cina. La Cina conta tantissimo per questo settore. E c'erano una serie di altre illusioni, come le politiche di Trump, che avrebbero dovuto innescare una serie di investimenti enormi nelle infrastrutture, che non si vedono. Gli investitori perdono fiducia anche in questo, e c'è una correzione in atto che in questo momento è diventata anche molto speculativa. Grazie dunque a Sissi Bellomo per questo aggiornamento, per questa analisi in diretta. Veniamo invece all'economia italiana, perché ci sono dati, o meglio notizie, in arrivo dall'Istat. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dati, quelli dell'Istat, in terreno positivo, ma che mostrano un'economia italiana che non riesce a prendere un ritmo di crescita costante ed accettabile. L'indicatore relativo al mese di aprile rimane infatti con segno più, ma evidenzia una decelerazione. I segnali di dinamicità provenienti dal lato dell'offerta e dal commercio estero stentano a rafforzarsi. L'occupazione, spiega ancora l'Istat, è in una fase di stabilizzazione. Le attese sull'evoluzione per i successivi 3 mesi risultano moderate, con un lieve peggioramento nei servizi, una stabilità nella manifattura e un miglioramento nel commercio e nelle costruzioni. In crescita quindi i prezzi, che registrano un nuovo aumento. In particolare bene poi il settore manifatturiero, sia in termini di produzione che di fatturato, dopo la caduta segnata a gennaio. Crescita anche per la produzione industriale nel trimestre dicembre-febbraio, più 0,7% rispetto al trimestre precedente, trainata dall'andamento positivo dell'energia e dei beni intermedi. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta anche per questo aggiornamento. Noi passiamo alla cronaca italiana, e lo dico all'ascoltatore che ci scrive via SMS al 349-238-6666 chiedendo notizie su Igor il russo alias Norbert. Non si preoccupi, ci arriveremo, perché non ce lo dimentichiamo. Veniamo invece all'indagine per le tangenti in una centrale Enel, partita tra l'altro dalla stessa azienda. Chiedevano una tangente pari al 5% del lavoro da appaltare. In cambio fornivano informazioni utili agli imprenditori interessati a partecipare alle gare. E così 5 funzionari della centrale Enel di Brindisi Federico II sono stati arrestati oggi. Uno è finito in carcere e 4 è domiciliare. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza. Al centro del giro di Mazzette c'erano lavori edili per la centrale Enel di Brindisi, alcuni dei quali, è emerso nell'inchiesta, mai eseguiti benché affidati e pagati. Tutta l'inchiesta è partita da un imprenditore che ha denunciato sia alla Procura che all'Enel di aver dovuto pagare per lavorare. L'Enel a sua volta ha fatto un'altra denuncia. Corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio e il capo di imputazione contestato ai cinque che avrebbero indicato ad un'impresa amica cosa scrive nelle offerte da presentare all'Enel, agevolandola così nell'aggiudicazione. Enel commenta di aver costantemente fornito alla Procura ogni elemento utile per fare piena chiarezza sulla vicenda e di aver adottato provvedimenti nei confronti dei cinque dipendenti, licenziamento incluso, atteggiamento apprezzato dal procuratore di Brindisi di Napoli, per il quale così si dovrebbe fare sempre. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Brindisi. Sfruttavano i richiedenti asilo che ospitavano nei centri di accoglienza come braccianti agricoli, sottopagandoli e intascando il rimborso dello Stato. È accaduto a Cosenza, 15 sono gli italiani sottoposti a misure cautelari. Il procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnuolo, intervistato da Valentina Furlanetto. Questa indagine è la prima indagine con la nuova legge sul caporalato, che è del novembre del 2016. I caporali sono coloro i quali gestivano il centro e che quindi avviavano al lavoro nei campi queste persone. Le retribuzioni oscillavano dai 10 ai 20 euro al giorno per 11 ore lavorative, il che sta ad indicare che siamo ben al di sotto dei 2 euro l'ora. I gestori dei centri, i caporali, avevano anche un ulteriore guadagno, che era quello di risparmiare sui costi di gestione del migrante. Come lei sa, nei CAS, il gestore del CAS riceve 35 euro al giorno per la gestione del migrante. Queste 14 misure cautelari che lei ha emesso sono nei confronti di italiani? Assolutamente sì, riguardano parte gestore dei centri, parte riguardano gli imprenditori agricoli. L'idea che noi ci siamo fatti è che questo sia un qualcosa di diffuso, spetterà ad altri colleghi, ad altre procure di verificarlo. Per quanto riguarda invece il fronte più generale, ossia le indagini sui rapporti tra ONG e trafficanti di uomini, delle quali ha parlato, come sapete, il procuratore di Catania Zuccaro, c'è da registrare questa mattina l'intervento della Caritas, che dice che stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi ha creduto di salvare vite umane, lo ha detto il direttore della Caritas in una conferenza stampa in Senato. Sempre Valentina Furlanetto ha intervistato oggi il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, che difende le ONG. Tra l'altro, la Croce Rossa è intervenuta sulle navi del MOAS. Sentiamo. Noi siamo stati lo scorso anno sulle navi del MOAS. Per quello che voi avete potuto vedere, ci può essere stato qualche contatto ambiguo con i trafficanti degli esseri umani e le ONG? Assolutamente, per quello che a nostra conoscenza nessuna collusione, ma soltanto la volontà di salvare vite in mare. Cioè, qui si sta ribaltando un concetto elementare, cioè che quello che è un obbligo salvare le vite umane, salvare chi si trova in difficoltà nel mare, e nell'assenza di Frontex e di qualsiasi meccanismo di protezione europeo, degli stati europei, le ONG, MOAS, Croce Rossa e altri organizzazioni si sono rimboccate le maniche e hanno cercato di sopperire. Fare campagna su queste cose proprio denota disprezzo per la vita umana. Lunedì è la giornata mondiale della Croce Rossa internazionale. Sì, è la giornata mondiale della Croce Rossa, e è una giornata che ci ricorda che noi ci siamo, che quel grido delle donne italiane di Castiglione delle Sighiere, tutti fratelli, per noi è valido ancora oggi. Così dunque la Croce Rossa italiana. Veniamo al DDL concorrenza, nel quale entra una norma che potrebbe creare qualche problema dal lato delle telefonate, quelle che riceviamo tutti quanti, quelle di telemarketing, quelle a volte decisamente ossessive. Sentiamo. Prima o poi siamo stati tutti bersagliati dalle chiamate che arrivano in qualsiasi momento, di solito quello sbagliato, per proporre contratti o prodotti anche più volte al mese o al giorno, e anche se avete detto di no. È il telemarketing selvaggio che vorrebbe contrastare una norma contenuta nel testo del DDL concorrenza e approvata dal Senato, norma che prevede la possibilità di respingere nuove chiamate non desiderate dopo la prima a tutti gli utenti, anche se non sono iscritti al registro delle opposizioni, cioè l'elenco dei numeri fissi nascosti per per così dire, agli operatori dei call center. È critica però l'autorità garante per la protezione dei dati personali e spiega perché Giuseppe Busia, segretario generale. Perché consente agli operatori di effettuare una chiamata senza il preventivo consenso. L'unica tutela data in mano al cittadino è quella di non dare il consenso a proseguire la chiamata. Banalmente posso chiudere la cornetta. Di fatto la pubblicità arriva, il disturbo arriva, l'utente non ha più alcuna difesa. La norma infatti, secondo il garante, si dovrebbe e si potrebbe migliorare, così nell'interesse e per la pazienza di tutti gli operatori compresi. Consentire che l'iscrizione al registro sia appunto aperta anche ai cellulari, a tutti i numeri, questo bombardamento degli utenti non fa bene alle imprese che intendono pubblicizzare i loro prodotti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo allo sport, tra un attimo verremo a questa vicenda che incrocia sport e cronaca, ossia i tre manichini appesi a Roma, ma prima il Giro d'Italia che inizia oggi. Piero Augusto Stagi, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, sì, è iniziato il Giro d'Italia ufficialmente alle 12.25, il via d'Alghero per Olbia, 206 km, una tappa pianeggiante. Un giro che caccia due corridori, Stefano Pierazza e Nicola Ruffoni, trovati positivi ieri sera per un ormone della crescita e quindi mandati via immediatamente. La Bardiani CSS, la formazione diretta da Bruno Reverberi, correrà quindi con 7 corridori su 9, e che però ricorda Michele Scarponi, un minuto di silenzio per ricordare il grande campione e compagno di squadra di Vincenzo Annibali, di Fabio Aru, che è morto praticamente in incidente 15 giorni fa. Tappa oggi per velocisti, una tappa che mette in palio la prima maglia rosa e quindi arrivo previsto intorno alle ore 15.30, e tutto da Olbia, la linea allo studio. Grazie dunque a Piero Augusto Stagi per questo aggiornamento, venendo invece, come si diceva, a questi tre manichini che sono stati trovati appesi a Roma, con delle scritte pesanti nei confronti di tre giocatori della Roma. Carlo Genta, ciao, eccoci. Ciao Simone, sì, qui con lo sport non c'entra nulla, sì. Questa è una vicenda di cui dovrebbero occuparsi in maniera seria le autorità competenti. Dubito che lo faranno, che avremo dei responsabili, dei colpevoli, delle condanne, eccetera, perché, ma questo detto senza rassegnazione, soltanto con molta amarezza, perché è stata una settimana di cui ci teniamo, l'inizio del Giro d'Italia numero 100 che avrà mille risvolti e che racconteremo, di cui ci teniamo le due semifinali di andata di Champions League in cui abbiamo visto due grandi squadre, una tutta vestita di bianco e l'altra in bianco nero italiana, illuminata da grandi campioni. Poi è stata una settimana di porcherie che non vediamo l'ora di incendiare nella nostra memoria, tra animali col pennello a Torino, animali col pennello e le corde a Roma, rivendicazioni che sono arrivate su quello che sta diventando ormai una discarica, sì, cioè il web, i social network, sì, che come sai per gusti personali, sì, non riesco ad amare, sono, sì, molto utili, sarebbero una grande opportunità, diventano sempre più spesso un emondezzaio. E insieme ai pennelli anche una giustizia sportiva, diciamo, che soprattutto sul caso Montari non dà grandi soddisfazioni. Ecco, questo, anche lì risolto in punta di legge, di pennino, come il vecchio notaio con gli occhiali bassi sul naso, la legge è questa e la applichiamo così com'è. Dimentichiamo anche questa vicenda, proviamo a dimenticarla, non la voglio conservare nemmeno come monito, come esempio per quello che verrà e che succederà. Ci sono un sacco di questi risvolti in una settimana che è dolcissima dal punto di vista sportivo, ma per quanto riguarda l'etamaio la pattumiera è piena. Allora, grazie dunque al nostro Carlo Genta, anche se con un filo di amarezza. Alle 14 ti ritroviamo, come sempre, in tutti convocati. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia. Andremo a Roma per tornare a parlare di morbillo. Parleremo di una vicenda che ci arriva dalla Sicilia, dove un giornalista è andato a tenere una lezione sulla legalità. Un giornalista, tra l'altro, minacciato dalla mafia, dalla criminalità organizzata. E i figli del boss hanno chiesto il diritto di replica in una lezione sulla legalità a scuola. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di Francia, dove secondo i sondaggi Macron allunga su Le Pen, di legittima difesa con Renzi che critica la legge che è stata approvata dicendo che è un pasticcio. Abbiamo parlato di un caso di cronaca che arriva da Cosenza, dove c'erano delle persone che insieme gestivano dei centri per richiedenti asilo e dall'altra parte li facevano lavorare da caporali per un pagandoli meno di 2 euro l'ora. Ci siamo occupati di telemarketing, perché le nuove norme che sono contenute nel DDL concorrenza suscitano molte perplessità, perché di fatto farebbero continuare le telefonate ossessive che riceviamo sui cellulari, non solo sui cellulari, appunto a causa del telemarketing, delle promozioni. Professor Alberto Villani, responsabile pediatria generale malattie infettive all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, buongiorno. Buongiorno. E dunque Roma, la prima tappa del nostro giro per l'Italia, mentre siamo sempre anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, così come su quella di Radio 24, diretta video naturalmente. Stiamo continuando ad occuparcene, i nostri ascoltatori sanno che un tema sul quale siamo spesso è quello del morbillo. Ieri abbiamo affrontato il dato generale della crescita dei casi di morbillo e il dato particolare della Toscana, dove nell'ultima settimana al Meyer 5 bambini sono stati ricoverati. I casi anche al Bambin Gesù di bambini ricoverati per il morbillo sono tanti, Villani, no? Sì, sono un numero significativo, perché dal 1 gennaio al 1 maggio ne abbiamo contati ben 47, quindi veramente un numero importante, considerando il fatto che se un bambino viene ricoverato vuol dire che ha dei sintomi così importanti da dover essere ricoverato. Molti altri bambini vengono rimandati a casa perché le condizioni lo consentono. E 47 rispetto a quanti erano l'anno scorso? 4 nello stesso periodo. 4 nello stesso periodo dell'anno sì. scorso. E ovviamente tutti non vaccinati, o c'erano anche bambini in età, come dire, prevaccinale, perché questo è un tema centrale. Allora, dei 47 bambini, 22 erano in età prevaccinale e solo 4 avevano fatto una dose del vaccino, ma erano, diciamo, non avevano ripetuto la seconda dose all'età in cui va fatto, ossia nel corso del sesto anno di vita. Quindi, appunto, c'è una percentuale di non vaccinati, una percentuale di bambini che contrae il morbillo, perché ce ne sono altri che non sono vaccinati. Professore, vogliamo fare un po' di chiarezza anche con gli ascoltatori, perché continuano a chiedermelo da ore. Ho provato a spiegarlo anch'io, ma forse una voce più autorevole come la sua la cosa la percepiscono meglio. Alcuni ascoltatori ci dicono: ah, ma negli anni 60 facevamo tutti il morbillo e non c'era nessun problema. In realtà si moriva di morbillo. Ma diciamo che negli anni 60 c'era molta meno informazione e effettivamente c'erano molti più bambini, ma molti ne morivano di malattie infettive, magari soprattutto negli anni 50, e poi chiaramente le condizioni sono significativamente migliorate, e quindi questo diciamo è un aspetto nuovo dovuto proprio al fatto che diciamo con la vaccinazione si sperava di aver completamente debellato questa malattia. Negli anni 60 i vaccini non erano disponibili, ci si ammalava e il rapporto era sempre lo stesso, cioè in un caso su 1000 c'erano dei bambini che avevano le encefaliti e in un caso ogni 50-100 complicanze respiratorie. Quindi ci si dimentica, non ci si ricorda di quello che è accaduto, ed è chiaro che può raccontarlo chi l'ha avuta e l'ha superata la malattia, ma purtroppo negli anni 60 morivano tanti bambini. La ringrazio, grazie al professor Alberto Villani, responsabile pediatria generale malattie infettive dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, per essere stato con noi. Adesso ci spostiamo e andiamo in Sicilia, andiamo ad Avola, siamo vicino a Noto, in provincia di Siracusa, dove succede questo. Un giorno va in una scuola a tenere una lezione sulla legalità Paolo Borrometi, che è un giornalista, direttore della Spia, minacciato, aggredito dalla mafia nel Ragusano, ed è in linea con noi. Paolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e grazie sempre per la vostra attenzione verso questi temi. Allora Paolo, tu vai in questa scuola e fai una lezione parlando sostanzialmente di un boss locale, no? E parlando di questo boss locale citi anche i due figli che sono coinvolti in procedimenti giudiziari per quanto non condannati. E che cosa succede? Che l'avvocato di questi due ha chiesto la par condicio? Esatto, fa ridere, lo so che fa ridere, ma purtroppo è così. Il 25 marzo scorso avviene questa lezione e alla quale partecipano i vertici delle forze dell'ordine, la rappresentante di Libera, ragazzi entusiasti, perché purtroppo in quella terra non è che si parli tanto di questi fenomeni. E tre giorni dopo, il giorno stesso, un familiare va a scuola per richiedere addirittura la registrazione di forza al personale ATA. Tre giorni dopo l'avvocato manda una nota alla scuola con la quale da un lato chiede le registrazioni audio-video della conferenza, dall'altro, incredibile ma vero, chiede la par condicio, cioè chiede che i figli andassero a scuola per compensare, lui scrive, le gravi affermazioni diffamatorie e calunniose che io avrei proferito nei loro confronti. Ma tu che cosa hai detto sui figli di questo boss? Io sostanzialmente ho detto quanto già pubblico da atti giudiziari e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, cioè che il padre è in galera, che le Crapula, uno dei boss più sanguinari del clan Trigilia, affiliato a Cosa Nostra della zona, i figli gestiscono una agenzia di pompe funebri che oramai si è allargata fino a monopolizzare pressoché totalmente il territorio, altre attività commerciali, alcune anche ricreative, e appunto sono gli inquirenti, i collaboratori di giustizia, a indicare i figli come coloro i quali gestiscono patrimoni del padre fuori dalla galera, con queste attività che sono molto significative. Noi sappiamo quanto le agenzie di pompe funebri, ad esempio, siano nel sud Italia assoluta ed esclusiva partecipazione alla criminalità organizzata, esatto. E quindi questo io ho semplicemente detto. E qua detto. L'avvocato ha chiesto il diritto di replica. Per chiudere, Paolo, la scuola glielo concederà? Ma io mi auguro che la scuola non conceda il diritto di replica e non conceda neanche le registrazioni, perché ovviamente lì si colpisce una persona per educarne 100, è sempre così, la scuola è temuta, l'educazione è temuta, e loro stanno cercando di vincere nei confronti dell'opinione pubblica sopra a un'istituzione fondamentale e indispensabile qual è la scuola. Questo è impossibile, tutti noi penso dobbiamo fare squadra attorno a quella scuola e a quei ragazzi. Grazie a Paolo Borrometi, in bocca al lupo a te evidentemente per il tuo lavoro. Noi adesso non possiamo farcelo mancare, lo abbiamo detto già prima, i nostri ascoltatori che ci hanno scritto addirittura dicendo: chi se ne frega delle elezioni in Francia, diteci dov'è Igor. Giuseppe Baldessarro, cronista di Repubblica, torna da noi. Giuseppe, ciao. Buongiorno. Ovviamente tu non lo sai, perché se non lo sanno quelle centinaia di poliziotti, carabinieri, uomini delle forze dell'ordine che lo stanno cercando, evidentemente non lo sai nemmeno tu, però come si stanno indirizzando le ricerche di Norbert? Le ricerche sono sempre molto molto, come dire, attente. Nonostante questo, nonostante si sia un po' ristretto il cerchio delle ricerche, nonostante ci sia la certezza a questo punto che lui comunque si trovi in zona, perché ci sono stati degli avvistamenti, ci sono dei segnali importanti, eccetera, eccetera, purtroppo non si riesce ad arrestare Norbert Ter, evidentemente ha un buon nascondiglio. Ma quindi le ricerche stanno continuando a concentrarsi là? Sì, fermo restando che poi le forze dell'ordine sono comunque tenute a verificare anche segnalazioni che arrivano un po' da tutta Italia, insomma, e questo disperde anche, fa disperdere energie, però vanno verificate tutte le occasioni. E ne stanno arrivando? Ne stanno arrivando a migliaia, ne sono arrivati in questo mese, anche le più assurde evidentemente. Sì. Però, ma sì, perché insomma, tu in un pezzo dell'altro giorno, Giuseppe, raccontavi anche della cartomante, di medium che si propongono. Lo so io dov'è. Dal matto al mitomano in giù c'è evidentemente di tutto, sono segnalazioni che ovviamente le forze dell'ordine non tengono in considerazione, poi accanto a questo evidentemente ci sono segnalazioni che appaiono sia per chi le fa che per come vengono raccontate più plausibili, allora quelle bisogna verificarle una per una. io ho fatto un elenco, un breve elenco di alcuni casi. Allora, Igor il Russo veniva segnalato dal supermercato in provincia di Pistoia alla Sicilia, a Palermo, piuttosto che sull'autostrada al confine del Brennero, piuttosto che in Sardegna, dove una signora ha raccontato di averlo visto scendere da un traghetto della Tirrenia. Insomma, evidentemente c'è un po' di tutto. In alcuni casi ovviamente le verifiche vanno fatte, anche quelle verifiche per il momento non hanno, no, altri casi vengono come dire messi da parte con una risata. Grazie Giuseppe Valdessarro, cronista di Repubblica, per essere stato con noi. E chissà che Igor, che sappiamo essere molto attivo sui social network, non ci scriva anche sulla nostra pagina Facebook, visto che tanto lo stiamo evocando. Andate anche là se volete, c'è sempre anche la diretta video. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ritorniamo in diretta con il nostro giro per l'Italia, che ci porterà in Liguria. Due vicende dalla Liguria. La prima riguarda le Cinque Terre, il Parco delle Cinque Terre. Si sta progettando di fare i sentieri a numero chiuso, visto che siamo a ridosso del fine settimana, ci fa piacere parlarne. E poi dall'altra parte la vicenda della direttiva Bolkestein. Sapete che la direttiva Bolkestein prevede anche la liberalizzazione per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, ossia il fatto che debbano essere messi all'asta. La regione in Liguria ha in preparazione una legge che dovrebbe prorogare gli attuali concessionari di queste spiagge per 30 anni, ne parleremo con l'assessore, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: in Francia, secondo i sondaggi, Macron allunga su Le Pen, la leader del Front National ancora contestata con lanci di uova. Domenica si vota per il ballottaggio. Notizia appena arrivata, la Procura di Roma è in attesa di un'informativa degli investigatori e poi aprirà un fascicolo per minacce aggravate sul blitz della scorsa notte davanti al Colosseo. Come sapete, i manichini dei quali vi abbiamo raccontato poco fa, appesi con le maglie di alcuni giocatori della Roma. La legittima difesa, Renzi frena sulla legge approvata ieri, è un pasticcio, dice il segretario del PD. Sul tema siamo pronti ad un referendum, fa sapere Salvini. Sfruttavano i richiedenti asilo per farli lavorare nei campi a meno di 2 euro l'ora, 15 italiani arrestati, gestivano i centri e facevano i caporali. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo in quest'ultima parte, un po' di spazio, ampio spazio alla Liguria. Vittorio Alessandro, presidente dell'ente Parco delle Cinque Terre, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, inizierei perché con lei tratteremo in realtà due argomenti, per quanto brevemente. Inizierei da questa idea del numero chiuso per i sentieri delle Cinque Terre, che in realtà era qualcosa che era stato già approvato, ma che a quanto pare volete implementare abbastanza rapidamente, no? Da quel che ho capito, entro il fine settimana del 2 giugno. Lo ricordiamo, le Cinque Terre sono è un posto meraviglioso in Liguria, con cinque paesini stupendi che si affacciano sul mare, uno dei posti più suggestivi d'Italia probabilmente. Ci dica, Alessandro. Dunque, più che di numero chiuso, preferirei parlare di flussi regolamentati, di un numero gestito, nel senso che, come i nostri ascoltatori sanno, le Cinque Terre sono un territorio piccolo, fragile e ha delle caratteristiche che per poter essere godute richiedono un turismo lento, attento e il più possibile consapevole. Quello che noi stiamo cercando di fare, abbiamo attivato quindi degli strumenti in questa direzione, secondo le linee anche di una logica europea che ci lega alla carta europea per il turismo sostenibile. Quello che noi vogliamo fare è dare informazioni ai turisti prima che arrivino ed essere noi stessi informati sul numero dei flussi e sul modo con il quale possono meglio essere indirizzati. Ma tecnicamente come funzionerà, Alessandro? C'è un'app? Che cosa c'è? Sì, un'applicazione che su smartphone metterà in condizione i nostri visitatori di conoscere con anticipo intanto le condizioni dei sentieri. Il modo per meglio frequentarli, perché sono sentieri di montagna, non sono sentieri di mare, quindi richiedono anche un minimo di attrezzamenti, e insieme a questo dei bollini bollino rosso quando si possono determinare come si sono determinati, ci dicono così i nostri contapersone che abbiamo installato sui sentieri, si determinano dei picchi che diventano anche rischiosi, sì. Nel senso che la sicurezza è il nostro primo obiettivo, ma vogliamo anche fare in modo che i sentieri vengano fruiti nel modo più sereno possibile, senza file, senza spintonamenti e cose del genere. Allora, Alessandro, brevemente, se riesce in 30 secondi, anche se l'argomento è complesso. Lei è stato, prima di diventare presidente dell'Ente Parco delle Cinque Terre, è stato ammiraglio della Guardia Costiera, lo abbiamo sentito spesso a Radio 24 come responsabile delle relazioni esterne, Lampedusa e non solamente Lampedusa. Come legge tutta questa polemica su ONG, inchieste, rapporti con i trafficanti e via dicendo? Guardi, sono convinto che le ONG, a parte le inchieste giudiziarie che è bene che si facciano e che dovranno verificare ciò che è giusto verificare, ma le ONG, le più importanti, svolgono un compito, e non solo nel canale di Sicilia, decisamente insostituibile. Quando cessò l'operazione Mare Nostrum, parlo della fine del 2013, la Guardia Costiera orientò la propria iniziativa in modo da coinvolgere il traffico mercantile, e il traffico mercantile fu impiegato quindi per recuperare barconi che si erano inoltrati nel canale, sì, partendo dalla Libia, recuperando circa in un anno 40.000 persone. Oggi le ONG recuperano più o meno questo numero di persone, quindi quel tassello della costa libica, cioè delle acque più vicine alla Libia, sono un tassello che comunque va coperto, perché se abbiamo notizia di un'imbarcazione che rischia di perdersi, è ovvio che si debba intervenire, chi si girerebbe dall'altra parte? Allora, se non si dirige il traffico, se ci sono delle imbarcazioni si trovano in quel luogo, è giusto che vengano impiegate per recuperare questi barconi. Ripeto, è necessario fare chiarezza sulle possibili ingenuità o peggio che possano emergere in questa vicenda. La ringrazio, grazie Vittorio Alessandro, presidente dell'Ente Parco delle Cinque Terre e ammiraglio della Guardia Costiera. Abbiamo pochi minuti con Marco Scaiola, assessore ligure al demanio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie. Rimaniamo in Liguria perché c'è una direttiva, come sapete, che è la direttiva Bolkestein, che prevede tutta una serie di liberalizzazioni, e tra queste c'è la necessità di mettere all'asta le concessioni per gli stabilimenti balneari. L'Italia è sotto la lente di Bruxelles per questo motivo, e nel frattempo però la Liguria sta pensando, Scaiola, ho capito bene, di prorogare le concessioni per 30 anni a quelli che attualmente le hanno? Ma da sintetizzare in pochi minuti è difficile, comunque cercherò di farlo. Noi stiamo portando avanti oramai da un anno e mezzo una battaglia per tutelare le imprese balneari, perché quando si parla di concessioni balneari bisogna ricordarci che noi parliamo di famiglie, di posti di lavoro, di 35.000 imprese in Italia. La cattiveria Scaiola, e anche di voti parliamo. Ma sa, come tutte quelle cose, quando fai una scelta è vero che qualcuno ti dice bravo, ma ci sono anche tanti che ti dicono che non lo condividono, quindi io direi che non è una scelta politica. Infatti anche il metodo che stiamo utilizzando qui in Liguria non è un metodo politico, perché noi abbiamo elaborato due disegni di legge, tra cui uno dove proroghiamo le concessioni demaniali, diamo la possibilità ai comuni di prorogarle per 30 anni, ma sono due disegni di legge che non saranno fatti dalla Giunta o dal mio partito Forza Italia, ma saranno condivisi all'interno del Consiglio regionale senza nessun marchio politico, senza nessuna etichetta politica, e già esponenti della minoranza di centro-sinistra mi hanno già garantito il loro sostegno, perché è un problema molto sentito. Sì, capisco che è un problema molto sentito, però ha capito qual è il dubbio dall'altra parte. Poi date la possibilità ai comuni, e i comuni che cosa vuole che facciano a un certo punto, no? No, ma scusi, qui abbiamo un governo che parla, ma al momento non c'è una norma nazionale che tuteli le imprese. Si metta nei panni di una famiglia che vive con un'attività balneare, che non sa se dopo 20 anni, 30 anni che sono lì, che sono cresciuti lì, che vivono lì, domani potranno ancora rimanere, oppure arriverà una multinazionale tedesca a cambiare le regole e a prendersi, perché hanno più soldi, più potere e portarsi via la propria spiaggia. A che prezzo le rinnovate? A che prezzo le rinnovate? Guardi, ci crediamo, abbia pazienza, lo so che in politica è un po' raro questo, lei giustamente ha aspetto malizioso e sta nella sua parte doverlo dire giustamente, ma mi creda, noi ci crediamo, perché noi in Liguria abbiamo 20.000 persone che lavorano lì e non possiamo metterle sulla strada, quindi noi auspichiamo che il governo faccia la sua parte, perché sì, è competenza nazionale, ma visto che il governo continua a rimbalzare la palla, visto che il governo non sta intervenendo, beh, ci stiamo muovendo noi come Liguria, ma mi creda che si stanno muovendo tutte, perché anche l'Abruzzo, che è amministrato dal centro-sinistra, ha fatto una legge simile. Nella mia lettura maliziosa, lo dico Scaiola, e qua chiudo e la ringrazio, perché dobbiamo veramente chiudere, e probabilmente anche l'Abruzzo per lo stesso motivo. Andremo a vedere, vedremo come andrà a finire e vedremo anche cosa ne penserà l'Europa di normativa di questo tipo. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.